vita. Niente amore di bontà, situazioni colorate, pasti freschi e variottate. A partire dai bambini per finire coi nonnini, gesti pieni di magia, sale forte l'allegria. Poi chi compra cioccolate e chi pensa a spaghettate, chi organizza un bel viaggione o chi adotta un bel cagnone, chi pagliaccia tra la gente con Nutella e caramelle, chi è felice in sto momento e pensa a belle storie a te. Abbracci stretti e risate, chi è felice in sto momento e pensa a belle storie a tempo. Belle storie a tutti. A tempo.